facciamo finta che non sia successo niente, che stiamo tutti bene, che ognuno è sorridente, che l'abbiamo votato noi questo presidente, eppure il precedente, eppure il precedente. Ti piacerebbe, schiavi di sta legge, di chi se ne sbatte, la prende e la corregge, e a noi chi ci protegge, da tutte ste manovre fatte da chi non ha nemmeno la patente. Frustrazione, le persone non hanno più un valore, chiusa un'altra parentesi, non riporta l'espressione, porta la disperazione, ti divora, che aspetta la tua ora, fa il countdown dal suo Rolex, neanche più il giornale riesce a fare informazione, tanto c'è il tronista a far cultura in televisione, tanto ci sono i talent a dar musica alla nazione. Maria, chiudi la busta, per favore. Cosa non va qui che non fa per me? Cosa non va e non so mai perché? Cosa non va, resto qui da te, ma cosa non va? Dai, non dirmi che sei timido, lo so quello che dicono, pensavo parlassi, ho percepito un sibilo. Io per salvarmi dal patibolo ho voltato così tante volte pagina che ho finito il capitolo, ma il libro è ancora lungo e voglio sentirmi libero. Farò il riepilogo quando sarò all'epilogo, voglio dargli un titolo, continuerò a descriverlo cantando sopra al palco quel microfono, lo stridolo. Non restare fermo lì, stanno vedendo prenderti, non ci sto, no, non ci sto. Tu non restare fermo lì, loro vogliono così, ma io no, no, ma io no. Cosa non va qui che non fa per me? Cosa non va e non so mai perché? Cosa non va, resto qui da te. Cosa non va?